vado in cerca di te da sempre. Non mi chiedo perché, Lili, mi va bene così, ma di te ho bisogno, non nasconderti più. Io ti sento di più al buio, poi ti illumini tu di lì. Questa notte per noi non è solo un sogno, questa volta sei qui. Se per noi anche la luna si è incendiata e corre il rischio di bruciarsi insieme a noi, nella mia mente sei tu, sei quella che ho sognato e stai qui. Con me vuoi far l'amore, Lili, oh Lili. Per la vita tu andrai sicura, tu avrai, Lili, tu non la scorderai, staremo insieme sempre, chiudi gli occhi con me. Lili.